ver lo sguardo a me tapino che senza nome desole in odio del destin che senza nome desole in odio del destino chiedo alle lontane ai misero chiedo alle lontane ai misero la morte di incontrar Leonora mia 调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream， 欢迎继续收听歌舞剧场。在接下来的节目中，请欣赏安德烈·博切利演唱的意大利民歌。 Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande.Fu andarsene poi via

tutto per te e mi manchi tu. Una malinconia dolcissima, il tuo sorriso nell'andartene. Aspetterò anche un ritorno impossibile, sembra possibile per me. Ti aspetterò. E qui dal po-